L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti per questa puntata dell'Altro Pianeta, che è un po' atipica, diciamo, rispetto al solito, perché è stata realizzata in strada a Milano nel corso di una delle azioni di protesta di Greenpeace, di cui ci capita a volte di vedere in televisione o di leggere, ma a cui non capita a tutti di partecipare. Io ad esempio non l'avevo mai fatto, e quando ho saputo che ce n'era una in programma ho chiesto, diciamo così, il permesso di partecipare, e mi è stato dato un appuntamento. Il tutto accade un po' misteriosamente, io sapevo solo il luogo e l'ora in cui avrei dovuto trovarmi. Mi è stato comunque chiesto di essere molto discreta sia sul luogo che sull'ora, pur non sapendo io il perché di quell'appuntamento e nemmeno quale fosse l'obiettivo della protesta. L'ho scoperto ovviamente lì per lì alle 7.30 del mattino in questo posteggio. L'obiettivo era una delle sedi di Siemens Italia. Il nome direi che è noto a tutti: la Siemens è una multinazionale, è attiva in più di 200 paesi, la casa madre è in Germania ed è specializzata nelle aree del l'elettrificazione, automazione e digitalizzazione. La competenza che ha portato Greenpeace a protestare contro Siemens è però la prima, quella che riguarda le tecnologie per la generazione e la trasmissione di energia, perché gli attivisti chiedono a questa azienda, in virtù del suo dichiarato impegno per l'ambiente, di non partecipare alla costruzione di una gigantesca diga idroelettrica nella foresta amazzonica. Ora, io prima ho detto blitz, il che fa pensare alle teste di cuoio, a qualcosa di pesante, di drammatico, ma in realtà è stato un blitz assai pacifico, dove non c'è stato nulla di preoccupante. Almeno in questo caso tutto è filato liscissimo, è stato un blitz dimostrativo che ha raggiunto il suo obiettivo del giorno. Per quello che riguarda poi gli obiettivi più alti, bisognerà aspettare. Cosa è successo? È successo che il gruppetto di attivisti, una quindicina, si sono divisi in un gruppo che con una scala è salito sul tetto dell'azienda, che è un capannone industriale non altissimo, e in un altro gruppo che è rimasto a terra vicino all'ingresso. Alcuni erano travestiti da animali e da alberi della foresta amazzonica, altri erano armati di strumenti a percussione che hanno suonato, li sentite in sottofondo, per tutta l'ora e mezzo circa che è durata la protesta, quindi tra le 8 e le 9.30 del mattino. E intanto Martina Borghi, responsabile della campagna foreste di Greenpeace Italia, ha parlato con noi della stampa. Siamo qui perché il cuore dell'Amazzonia è in gravissimo pericolo a causa di un folle progetto di costruzione di una mega diga che rischia di mettere in pericolo le popolazioni e la biodiversità. Sappiamo che Siemens è interessata a questo progetto e vogliamo chiedergli di escludere ogni partecipazione alla costruzione della diga idroelettrica di São Luís do Tapajós nello stato del Pará in Brasile. Chiediamo a Siemens di dichiararsi pubblicamente in favore della difesa della foresta amazzonica contro ogni violenza e sfruttamento delle popolazioni che la abitano e che, come gli indigeni Munduruku, rischiano la propria sopravvivenza a causa della costruzione di questa mega diga. Gli indigeni Munduruku sono circa 12.000 persone che da generazioni vivono nella valle del Tapajós. Se questa diga venisse costruita, stiamo parlando di una diga lunga 7,6 km, che inonderebbe una superficie di 400 km quadrati, implicherebbe una deforestazione indiretta per costruire tutti gli spazi, le strade necessarie per costruire questa diga di 2200 km e creerebbe un bacino della grandezza circa della città di New York. Quindi stiamo parlando di un impatto ambientale devastante e anche di un impatto sociale molto grave su queste popolazioni indigene, sulle altre popolazioni che vivono lungo il fiume Tapajós e per le grandi città che riceverebbero dei flussi di migranti enormi che spesso lacerano il tessuto sociale, come è già successo nei casi di altre dighe nell'Amazzonia e nel mondo. Questa diga serve per la produzione di energia idroelettrica. Quali sono le problematiche collaterali legate alla costruzione di questa diga? Allora, l'energia idroelettrica non è un'energia pulita quando, come in questi casi, mette a rischio la biodiversità, viola i diritti delle popolazioni indigene, delle popolazioni locali che non sono state consultate previamente alla decisione di avviare questo progetto. Inoltre è un'energia che si sta dimostrando inefficiente perché il 70% dell'energia del Brasile già proviene da energia idroelettrica e non è stata sufficiente. Inoltre, a causa dei cambiamenti climatici, la portata dei fiumi in Brasile sta diminuendo e quindi è quasi impossibile che venga prodotta la quantità di energia per cui questa diga è stata prevista. Allora, prima di tutto sappiamo che ci sono molte aziende che hanno la potenzialità di investire in Brasile in progetti di energia rinnovabile, veramente pulita, come per esempio l'eolico e il solare. E sappiamo che Siemens può fornire attraverso la joint venture con un'altra impresa basata in Germania che si chiama Voith, turbine idroelettriche per la costruzione, indispensabili per la costruzione della diga di San Luis do Tapajós. Siemens ha già finanziato e ha già offerto turbine idroelettriche per la diga di Belo Monte, una diga che è molto famosa per il tremendo impatto ambientale e per l'impatto sulle popolazioni indigene. Siemens, avevate già tentato di contattarli in precedenza? Sì, noi abbiamo scritto una lettera a Siemens Italia a fine maggio esponendo questa nostra preoccupazione e purtroppo non abbiamo ricevuto risposta. Quindi siamo qui oggi, come in molti paesi è già successo in Europa, chiedendo a Siemens Italia di ascoltarci, di ascoltare questa nostra preoccupazione e di riportarla alla sede centrale di Monaco di Baviera. Dove si stanno svolgendo altre azioni, immagino, dove di Greenpeace? Si sono svolte altre azioni nei mesi scorsi. Greenpeace Germania è in contatto con la sede di Monaco di Baviera da dicembre e ha continuato appunto a parlare, a negoziare con Siemens, con la sede centrale, appunto dall'anno scorso. Che cosa accadeva nel frattempo? La guardia all'ingresso non ha chiesto né perché né per come agli attivisti, è uscita solo per dire che aveva chiamato la polizia. Ma prima degli agenti è arrivato il responsabile della sicurezza della Siemens Italia, di quella specifica sede, che ha chiesto a Martina di seguirlo all'interno dell'edificio. Se lei continua così, se si può allontanare per cortesia anche lei col microfono. Sì. Grazie. Però possiamo. E intanto gli attivisti distribuivano volantini ai dipendenti che cominciavano ad arrivare ed erano incuriositi, ma devo dire effettivamente non troppo, ma comunque qualcuno, come sentiremo, sì. Posso chiedervi se vi chiedono o prendono il volantino? No, gli lasciamo il volantino tendenzialmente. Ma lo prendono volentieri? Sì, lo prendono tutti volentieri. Chiedono anche qualcosa oppure no? Mi è capitato a lui di chiedere qualche cosa. Ciao. Buongiorno. Chiedono a qualcosa anche oppure prendono il volantino e vanno? No, ci sono dei dipendenti che sono interessati a sapere cosa stiamo facendo e per cosa stiamo protestando. Ho appena parlato con un paio di dipendenti che sono usciti apposta per avere qualche informazione in più sul significato della nostra protesta e della nostra azione, insomma. Quindi sì, c'è interesse. Concluso il suo colloquio con il responsabile della sicurezza di quella sede Siemens, è ritornata Martina Borghi. Che cosa ti hanno detto, ovviamente, tutti hanno chiesto? Ci è stato detto che parleranno col management dell'azienda, che sperano, che sono coscienti che Siemens ha un portafoglio verde, che questo progetto e Belo Monte, insomma, sono delle ragioni di preoccupazione e che l'Italia non ha molta voce in capitolo in quello che accade in Brasile, però noi sappiamo che le decisioni principali di Siemens vengono prese in Europa. A questo punto a noi tutti che eravamo lì non restava che aspettare l'arrivo della detta di Siemens ai rapporti con la stampa, come c'era stato preannunciato. Ormai si erano fatte le 9:15 più o meno, i dipendenti erano quasi tutti entrati e gli ultimi ritardatari entravano di fretta. Sul tetto c'erano ancora gli attivisti travestiti da tucano, una posizione non invidiabile con il sole di luglio. A terra c'erano coloro che suonavano le percussioni. Insomma, c'era da aspettare. Faccio aspettare anche voi qualche secondo e ci ritroviamo tra pochissimo dopo la pausa. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio da Laura Bettini, seconda parte di questa puntata dell'Altro Pianeta, nella quale vi stiamo raccontando di un blitz di Greenpeace a Milano presso una sede della Siemens, famosa multinazionale tedesca, alla quale l'associazione chiede di sfilarsi da un progetto di costruzione della diga di São Luís de Tapajós nel cuore dell'Amazzonia brasiliana. Con una lettera inviata a Siemens lo scorso maggio, Greenpeace aveva già chiesto all'azienda di dissociarsi pubblicamente, così come aveva fatto Enel da quel progetto. Ma non avendo ricevuto risposte, Greenpeace è entrata in azione in Germania, come in Belgio e in Italia e prossimamente probabilmente in altre sedi europee di questa multinazionale. A Milano un gruppetto di una quindicina di attivisti è salito sul tetto dell'azienda con bandiere, uno striscione con la scritta «Giù le mani dall'Amazzonia», mentre altri a terra suonavano strumenti a percussione e distribuivano volantini ai dipendenti all'ingresso. Ovviamente c'è stato un primo comprensibile stupore da parte delle guardie di sicurezza della Siemens, che hanno richiesto l'intervento della polizia e ovviamente anche quello del loro referente aziendale per la sicurezza, che è stato il primo ad arrivare e a parlare con Martina Borghi, responsabile della campagna foreste di Greenpeace Italia. Le ha chiesto cosa facevano lì, le ha chiesto di far scendere i suoi compagni dal tetto e di aspettare la referente aziendale dei rapporti con la stampa che li avrebbe incontrati, che li avrebbe accolti. E così per me a quel punto c'era tutto il tempo di scambiare altre due parole con Martina sul progetto della diga. È già in cantiere, le ho chiesto? Non è fisicamente in cantiere, ma è già stato pensato. C'è già stato, diciamo, quella che potrebbe equivalere per noi una gara d'appalto. Quindi ci sono già delle aziende che stanno pensando agli accordi economici sulla gestione di questo progetto. Fortunatamente non è ancora fisicamente in cantiere, quindi è il momento giusto per poterlo bloccare prima che entrino in gioco troppi problemi legali, ragioni economiche. È la prevenzione, perché questo progetto non accada, e per spiegare che non vogliamo la diga di São Luís do Tapajós e non vogliamo megaprogetti in Amazzonia, perché è un ambiente troppo fragile, che offre molto dal punto di vista ambientale, della biodiversità, ma molto molto fragile e delicato, e dove vivono inoltre molte persone, popolazioni indigene e anche popolazioni che tradizionalmente occupano questi territori. L'altra cosa che abbiamo toccato prima chiacchierando era, diciamo, una battaglia che si può fare principalmente qui. Parliamo di Amazzonia, parliamo di Brasile, che ci sembra un paese lontano, lo è, ma tante decisioni vengono prese da qui, dall'Europa. Le implicazioni, quello che accade là, sono conseguenze di decisioni prese spesso qui e da qui. Quindi noi vogliamo agire sull'Europa, perché sappiamo che ci sono aziende che hanno la volontà, il potenziale e che devono incrementare i loro portafogli verdi, sostenibili, in modo da portare, generare lavoro qui, generare lavoro in Brasile, ma al servizio per la produzione di energie sostenibili e rinnovabili, come per esempio l'energia solare. Questo progetto, mi spiegavi prima, avrebbe anche delle ricadute gravi da un punto di vista delle emissioni. Parliamo di generazione di molto metano per l'allagamento di questa parte della foresta. Sì, per molto tempo l'energia idroelettrica è stata considerata energia pulita, perché non venivano prese in considerazione le emissioni di metano che sorgono dal fatto dell'inondazione di materia organica, che appunto macerando produce queste emissioni di metano, che sono molto dannose per il clima, molto pericolose per l'incremento dei cambiamenti climatici già in corso, e che dovrebbero, che noi appunto stiamo chiedendo, che vengano prese in considerazione. Inoltre non pensiamo che nessuna energia possa essere considerata pulita se implica la violazione dei diritti umani. E visto che ancora la responsabile dei rapporti con la stampa non arrivava, c'è stata anche l'occasione e il tempo di parlare con alcuni degli attivisti che stavano lì. Il nome, anche il nome di battesimo non è... Erika Brighitta. Allora io ti incontro qua davanti alla Siemens, tu segui particolarmente progetti sulle foreste oppure come so, insomma, attivista Greenpeace, ti occupi a tutto campo di tutto? Sì, siamo informati su tutte le campagne, quindi dal TTP alle foreste, in questo periodo praticamente il TTP, perché sappiamo che... Che però TTP in questo momento pare... Aspettiamo, tutti i negoziati iniziano l'11, quindi aspettiamo. Dispiacerà il ministro Calenda, che era invece un attivista dall'altra parte. La giornata di oggi, come ti sembra, insomma, soddisfacente? Avevi già fatto attività di questo tipo? Qui a Milano. Su cosa? Su altre campagne che riguardano la campagna pesca, per esempio, l'anno scorso. E quella di oggi invece com'è andata? Sembra bene al momento, aspettiamo di vedere se riusciamo almeno a raggiungere l'obiettivo, che sarebbe quello di parlare con il responsabile della Siemens qui. Allora abbiamo parlato con il responsabile della sicurezza. Tu sei? Marco. E, attivista da tanto? Non più di un anno. E, sono venuto qui a Milano per chiedere alla Siemens comunque di non investire in progetti come... mega costruzioni di dighe in Brasile che metterebbero a rischio comunque alcune popolazioni che sono native del posto, come il popolo dei Munduruku. E soprattutto hai detto sono venuto a Milano perché in realtà tu sei di? Vengo da Roma. Da Roma, quindi sei venuto per l'occasione proprio. Sono venuto qua esattamente per l'occasione e ci teniamo soprattutto che la Siemens, dato che è un'azienda che si espone come green e mantenga questa linea e appunto faccia un passo indietro qualora avesse deciso di investire lì. Che cosa ti piacerebbe vedere come... ti chiami, scusa? Giulia. Giulia, cosa ti piacerebbe come risultato di questa giornata? Lui diceva, vorremmo che la Siemens facesse un passo, ma un passo tipo che scrivesse qualcosa, facesse una dichiarazione. Sì, principalmente una dichiarazione pubblica in cui dice di non collaborare in alcun modo alla costruzione di questa megadiga. Ancora non è sicura la partecipazione dell'azienda in questo progetto, però vogliamo che invece sia sicuro il fatto che la Siemens decida di non partecipare in alcun modo alla costruzione della diga. Sì, la Siemens sarebbe però rimpiazzata da qualcun altro, che diventerebbe a quel punto l'obiettivo numero uno. Sì, però per il momento se riusciamo a far retrocedere questa grossa azienda europea sarebbe un bel messaggio anche per altre aziende che potrebbero sostituirla poi nel progetto, quindi sarebbe già un bel obiettivo raggiunto. Concordi? Tu da tu sei? Pietro. Pietro, concordi? Sì, concordo. Del giorno, diciamo. Beh sì, perché comunque la Siemens produce un componente delle turbine idroelettriche che sono molto importanti per la diga, quindi fermando la Siemens bloccheremo il progetto per un po' di tempo. Certo potrebbe subentrare qualcun altro, però già... se un'azienda grossa come la Siemens fa un passo avanti di questo genere, quindi si espone pubblicamente per questo progetto o per prossimi progetti futuri di questa tipologia, già dà un segnale forte a lei e alle altre aziende per insomma, spostarsi verso un obiettivo più ecosostenibile. Tu da tanto che fai azioni di questo tipo? Oppure? No, sono attivista da poco, da qualche mese. Però cosa ti ha fatto diventare attivista? Beh, sono in Greenpeace da molto di più, da più di 6 anni, quindi ho abbracciato questa mentalità, questo modo di vedere insomma, la vita di tutti i giorni e per me l'attivismo poi è diventato un completamento del percorso diciamo, all'interno di Greenpeace. Studio, faccio ingegneria a Bologna. Quindi riesci ancora a gestire le due attività in qualche modo? Insomma. Sì, sicuramente questo aiuta. Siemens Italia, avevo letto nel sito dell'azienda, è al 7° posto nella geografia globale della multinazionale per giro d'affari. Non è la prima, quindi, e non è neanche la filiale, diciamo, che decide. Ma Martina Borghi si augura comunque che Federico Golla, che è CEO e presidente di Siemens SPA, condivida la posizione di Greenpeace o comunque che ne parli alla casa madre. i dirigenti però durante la protesta non ne sono comparsi o comunque non si sono fermati entrando in ufficio. È arrivata dopo un po', come promesso, Angela Gherardelli, responsabile dei rapporti con la stampa, e quello che sentiamo è qualche passaggio dell'incontro con Martina Borghi. Martina le consegna i documenti e le analisi di Greenpeace, ma anche di altri centri studio indipendenti, che evidenziano le pericolose ricadute che avrebbe la costruzione di quella diga. La Gherardelli accetta i documenti, assicura che Siemens osserverà scrupolosamente la legge e le indicazioni del governo brasiliano. Il che non rassicura Martina. Martina le risponde infatti che al momento il governo brasiliano ha non poche difficoltà e ispira difficilmente fiducia a Greenpeace come a molti altri. Piuttosto, dice, l'esperienza della diga di Belo Monte, sempre in Brasile, dove pure ha lavorato Siemens e dove già sono evidenti le pesanti ricadute sociali e ambientali, dovrebbe aver chiarito a tutti quale può essere l'impatto di un'opera come quella di cui si sta parlando. La Gherardelli non commenta, ma ricorda che Siemens e Greenpeace sono, dice, ai massimi livelli delle loro gerarchie, già in contatto sulla questione e non mancheranno ulteriori colloqui e occasioni di confronto. Per quanto riguarda l'Italia, vorremmo che Federico Golla potesse dire a Joe Kaiser che in Italia c'è forte preoccupazione. Tutto davvero con la massima calma e serenità. I vigili urbani, poiché non c'era traffico da deviare, hanno anche loro assistito, incuriositi sicuramente dalla situazione. La Digos, nel frattempo infatti era arrivata anche la Digos, si è fatta spiegare tutto e chissà che magari non si appassioni al caso. Insomma, nel complesso per me è stata un'esperienza interessante e spero che sia stata interessante anche per voi da ascoltare. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.